Nella pubblica amministrazione, per la mia esperienza, è necessario incominciare a fare degli inserimenti di profili di persone che non sono quelli tradizionali della pubblica amministrazione, cioè perché questi processi diventino processi allargati ci vogliono statistici, ci vogliono matematici, ci vogliono ingegneri, ci vogliono fisici e ci vogliono forse un po' meno giuristi, un po' meno. Ecco, quindi ancora una volta è un problema di tipo culturale, no?